Focus Economia. Con Simone Spezia. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, buonasera da Simone Spezia, benvenuti a questa nuova puntata di Focus Economia. 349-238-6666 per i vostri sms, per i messaggi su WhatsApp. E a chi già lo scrive, ve lo dico subito, Sebastiano Barisoni torna domani. Tranquilli, tranquilli, avrete anche la vostra classifica degli sprechi, come ogni venerdì con Sebastiano. Di che cosa parleremo oggi? Allora, innanzitutto, in apertura, il nostro tema di apertura, non perché naturalmente sia il tema di apertura della giornata economica, ma perché ci sembrava sicuramente di un certo interesse, è questo protocollo che è stato firmato, questo accordo che è stato raggiunto per quanto riguarda i call center. Grande tema di questi anni, l'ultimo caso che abbiamo visto pesante dal punto di vista occupazionale è stato quello di Almaviva, e lo sapete, con le lettere di licenziamento ormai partite per 1600 lavoratori della sede di Roma, mentre rimarranno a lavorare per Almaviva quelli di Napoli, sulla base di un meccanismo che prevede una temporanea riduzione del denaro percepito. Almaviva, che è entrata in crisi, come almeno dal lato appunto del settore contact center e call center, così come tanti altri operatori italiani, perché c'è stata una forte delocalizzazione. Che cosa è successo? Che una serie di operatori del settore, una serie di aziende che sfruttavano, che avevano bisogno dei call center, si rivolgevano ad aziende di call center che avevano una sede all'estero. Si stima, giusto per darvi un'idea, che 25.000 addetti tra Romania, Albania, Polonia, Croazia, Tunisia, Marocco lavorino per l'Italia. Questo che cosa comporta? Chiaramente dei costi molto più bassi per le aziende che hanno bisogno del call center, ma dall'altra parte una forte perdita di posti di lavoro per quanto riguarda l'Italia e, aggiungiamo noi, a volte anche un servizio decisamente peggiore, anche solo per la qualità dell'italiano parlato. A volte, come dire, la cosa funziona bene, a volte questa cosa non funziona. Che cosa è successo? È stato firmato un protocollo sotto l'egida del governo, sotto un cappello, per così dire, governativo, tra i principali utenti dei call center. Sono 13 imprese che rappresentano il 65% del fatturato del settore, sono le aziende che utilizzano appunto i call center, le quali hanno detto: ok, noi ci impegniamo, non è una cosa vincolante, è un protocollo d'intesa, una sorta di carta etica, per così dire, a far sì che il 95% dei contatti dell'attività dei call center interni si svolga in Italia, interni alle aziende. Per quanto riguarda quelli in outsourcing, ossia quelli presi da altre aziende, da aziende esterne, almeno l'80% deve risiedere in Italia. Sono previste anche delle certificazioni linguistiche e così via. È un elemento importante che sembra poter mettere un punto, per quanto provvisorio e per quanto solamente parziale, su una questione, appunto quella dei call center, che si trascina da anni. Call center che, come sapete, sono diventati un po' il simbolo, no, del lavoro di una generazione. Questo per quanto riguarda i call center e per quanto riguarda appunto l'Italia. Sempre per quanto riguarda l'Italia, c'è questo tema dei rapporti con le aziende straniere che operano qua, soprattutto i big della tecnologia. È stato raggiunto un accordo tra il fisco italiano e Google, un accordo da 300 milioni di euro. Google verserà al fisco italiano 306 milioni di euro per una serie di anni, per una serie di contestazioni che venivano fatti all'azienda. È uno snodo interessante, innanzitutto per i soldi che entreranno allo Stato italiano, poi perché apre alla possibilità che successivamente la fedeltà fiscale, se così possiamo chiamarla, di queste aziende, o meglio l'attenzione alle tasse pagate in ogni singolo paese nel quale operano, nella fattispecie in Italia, sia un po' più forte, non solamente per quanto riguarda Google, ma ovviamente per quanto riguarda tutte le altre grandi aziende della tecnologia. Ci occuperemo di Stati Uniti, questa sera si va a votare, i repubblicani dovrebbero andare a votare per cancellare l'Obamacare e chiamare e cambiare dunque le regole sull'assistenza sanitaria in America. Una delle grandi promesse di Trump sarà anche l'occasione nella quale con Mario Platero cercheremo di fare un punto, perché finora da questi microfoni non l'abbiamo fatto, sui primi 100 giorni di Trump, sul grande taglio di tasse promesso e, perché no, sulla Federal Reserve che si è riunita ieri e ha deciso di lasciare i tassi di interesse invariati. E poi la legge sulla concorrenza italiana. Il dato più interessante forse di questa legge sulla concorrenza italiana, poi entreremo sulle singole misure, è quello riportato in apertura del servizio di Carmine Fotina di oggi sul Sole 24 Ore. C'è una legge italiana che prevede che il governo presenti ogni anno un disegno di legge sulla concorrenza e poi evidentemente questo venga approvato dal Parlamento. Ebbene, per approvare questa legge sulla concorrenza, che è passata ieri solamente alla Camera e dovrà passare al Senato, e quindi solamente al primo passaggio, ci sono voluti 803 giorni, quindi 2 anni e mezzo. Ci sembra decisamente significativo in un paese che fatica, come dire, a prendere le misure appunto della concorrenza, tenendo presente che all'interno di questo DDL concorrenza, come sapete, da questo DDL concorrenza sono fuggite via tutte le norme che riguardano il trasporto, quello dei taxi, Uber, NCC, tutto rimandato a una regolamentazione successiva che supponiamo a questo punto arriverà quando ormai ci saranno solo le auto che si guidano da sole, il problema non si porrà più. Per quanto riguarda i mercati, giornata ottima, più 2% per il FTSE MIB, più 1,78% per il FTSE All Share, mentre Parigi guadagna l'1,12%, Francoforte lo 0,74%, Londra lo 0,06%, tutto questo nonostante la giornata Wall Street sia negativa. Il Dow Jones perde lo 0,16%, lo Standard & Poor's lo 0,02%. Per quanto riguarda il listino principale italiano da segnalare, Leonardo Finmeccanica che guadagna il 6,6%, Ferrari il 4,7%, così come Uxnet a Porté, Telecom Italia il 4,5%, Popolare Milano il 4,3%, A2A il 3,64%, Popolare Emilia Romagna il 3,5%, Azimut il 3,46%, a testimonianza che a differenza delle solite performance di Milano, che di solito va molto bene quando vanno molto bene i bancari, oggi i bancari vanno bene, ma Milano viene sostenuta evidentemente anche e soprattutto da altri titoli. Ovviamente anche di questo parleremo più avanti, vi dico solo che ci sono gli unici titoli in negativo sono Tenaris meno 2,45, Saipem meno 1,13, qua si risente di un prezzo del greggio in particolare calo, giù anche Recordati meno 0,44, ST Microelectronics, ma della corsa di ST Microelectronics in queste ultime settimane abbiamo parlato lungamente, che perde oggi lo 0,4%, tutti gli altri sono positivi. Le notizie in breve di oggi. E tra l'altro sono perfettamente d'accordo con gli ascoltatori, diciamo così, sulla riforma delle pensioni fatta dal governo Monti e da Elsa Fornero, possiamo discutere all'infinito, però è vero anche, come scrive l'ascoltatore, ci sono 7 giorni per approvare la legge Fornero e 803 giorni per approvare in prima lettura la legge sulla concorrenza. Ragazzi, ma no, suona un po' da presa in giro. Le materie prime, l'oro in calo dell'1,8% a $1,224 l'oncia, petrolio che scende del 2,8%, quasi del 3% negli Stati Uniti, il WTI con consegna a giugno, a meno 2,97 a $46,4 al barile, e il Brent con consegna a luglio, giù del 2,74% a 49,4. Notizie da Apple, che ha deciso di investire $1 miliardo in un nuovo fondo per il manifatturiero avanzato per spingere la creazione di posti di lavoro negli Stati Uniti, lo ha annunciato l'amministratore delegato Tim Cook. I posti nel settore della manifattura creeranno altri posti di lavoro nell'industria dei servizi che vi nascerà intorno, dice Cook in un'intervista alla CNBC. L'annuncio ufficiale arriverà nelle prossime settimane. Apple diventa così l'ultima delle aziende della Silicon Valley in ordine temporale a cercare di costruire un dialogo con l'amministrazione Trump, no? La politica di America First. Amazon ha già promesso 100.000 nuovi posti di lavoro e Intel un investimento da $7 miliardi nei prossimi 2 anni. La Fed, ve lo dicevo già prima, ha lasciato invariati i tassi di interesse fra lo 0,75 e l'1%. L'ultima volta che ha ritoccato a rialzo di un quarto di punto il costo del denaro è stato nel marzo scorso, il primo aumento del 2017 e il terzo dal 2006. Dice che l'inflazione va verso il 2% e ci saranno aumenti dei tassi graduali, ma una politica monetaria accomodante. Parla la Banca Centrale Europea per bocca di Sabine Lautenschläger, numero 2 della vigilanza bancaria che fa capo alla BCE, durante un discorso a Francoforte, e dice che in merito alla Brexit le banche europee devono decidere come affrontarla e prepararsi al peggio sarebbe opportuno. Per quanto riguarda la BCE, il messaggio più importante dice che noi ci atterremo ai nostri standard. Arrivano altre notizie, per esempio quelle di JP Morgan, che è pronta a spostare centinaia di dipendenti dai suoi uffici londinesi a Dublino, Francoforte e in Lussemburgo. Niente Milano, mannaggia. Per prepararsi allo scenario di una perdita del passaporto bancario europeo della City di Londra dopo Brexit, useremo le 3 banche che già abbiamo in Europa come punti di ancoraggio delle nostre operazioni, ha detto in un'intervista alla Bloomberg Daniel Pinto, il responsabile dell'investment banking di JP Morgan. Dovremo spostare centinaia di persone nel breve termine per essere pronti fin dal primo giorno quando termina il negoziato e poi decideremo sui numeri per il lungo termine. Le questioni italiane che hanno a che fare con Bruxelles, però anche in questo caso. Il commissario Valdis Dombrovskis, o meglio il vicepresidente della Commissione Europea, rispondendo a una domanda dei giornalisti, la mette così sulla manovra italiana. A una prima occhiata sembra aver raggiunto lo scopo di correzione dei conti, a una prima occhiata. Comunque, prendiamolo come un buon segnale. Stiamo valutando i piani di stabilità e riforme italiani e di altri paesi, dice. Per l'Italia sappiamo che questa valutazione è particolarmente complessa perché bisogna valutare la regola del debito, la manovra da 0,2% e questa correzione a prima vista sembra essere tale. Parla anche il ministro dell'economia Piercarlo Padoan. La politica di bilancio dell'Europa dovrebbe tener conto della bassa crescita nominale. Per quanto riguarda la correzione dei conti, dice contenuta ma strutturale. Sentiamolo. Il decreto legge 50 del 2017 è stato anticipato da un ampio dibattito legato alle richieste di correzione dei conti pubblici da parte delle autorità europee. Su questa correzione vorrei ricordare innanzitutto che è molto contenuta, si tratta di 0,2 punti percentuali del PIL pari a 3,4 miliardi. Ha efficacia strutturale, quindi proietta i suoi effetti di riequilibrio anche nei prossimi anni. È resa opportuna da un quadro di fattori convergenti che accentuano la percezione di un rischio Italia, testimoniato peraltro da alcune valutazioni peggiorative dell'agenzia di rating, l'avvicinarsi della fase di rallentamento della politica monetaria espansiva della BCE, l'approssimarsi della fine della legislatura, il debito elevato. Il Governo ha ritenuto necessario che la correzione si inserisse organicamente in una strategia di medio periodo, sulla scia di quanto fatto dal 2014 e nel solco della programmazione che abbiamo tracciato nel documento di economia e finanza. Il ministro dell'economia è intervenuto anche in un'altra occasione a Napoli ad un incontro su imprese, venture capital e private equity. Le misure prese dal governo in favore delle imprese non fanno mai notizia di prima pagina, dice, ma stanno costituendo un'infrastruttura finanziaria di governance e sono strumenti utili. Ascoltiamolo. L'idea, lo spunto più positivo che prendo è che c'è una enorme vitalità imprenditoriale e che le misure che il governo ha preso, ripeto, in questi anni, che magari sono misure che non fanno mai notizia di prima pagina, ma che stanno costituendo una infrastruttura finanziaria di governance che funziona, sono effettivamente strumenti utili. E questo significa che abbiamo l'opportunità di trasformare questa ripresa della crescita, che si vede in modo molto chiaro, da una ripresa ciclica a una ripresa strutturale, cioè basata su basi più robuste che necessariamente richiedono imprese robuste. Posso citare i mini bond, posso citare i PIR, cioè i piani di investimento per convogliare il risparmio privato verso le attività manifatturiere e imprenditoriali. Questi sono strumenti che stanno avendo successo, oltre che in generale le misure di sostegno dal punto di vista fiscale agli investimenti delle imprese che recentemente il governo ha introdotto. Poi, visto che siamo sull'Italia, me lo fa notare un ascoltatore o un'ascoltatrice, non so sinceramente, dice, ma non era in prima lettura la legge sulla concorrenza che ci sono voluti 83 giorni per far approvare? No, hai effettivamente ragione, la prima lettura era stata della Camera nell'ottobre del 2015 e ieri abbiamo avuto la seconda lettura del Senato e adesso torna alla Camera per, si spera, l'approvazione definitiva, ma a questo punto non lo sappiamo. Potremmo tirare avanti questa legge annuale sulla concorrenza finché non diventa, insomma, no, l'approvazione da una delle due Camere annuale con dei cambiamenti, in maniera che ce la tiriamo sempre e avanti e via. Allora, parlava di vitalità delle imprese Padoan. Abbiamo l'indice PMI, quello dei direttori acquisti composito dell'Italia, che sale ai massimi da quasi 10 anni, da luglio del 2007 a 56,8 punti da 54,2 di marzo. Il dato rilevato da Markit è superiore alle attese di un rialzo a 54,6. E a proposito di fisco, le più recenti stime effettuate dall'Agenzia delle Entrate, dice il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Rossella Orlandi, evidenziano una riduzione strutturale del gap IVA di 2 miliardi e mezzo nel 2015, di un ulteriore miliardo nel 2016, grazie al cosiddetto split payment, importi al netto dei maggiori rimborsi e compensazioni. E poi parla di studiare accordi preventivi ad hoc per il web. per i cosiddetti colossi del web, Google, Facebook e via dicendo, nel giorno nel quale Google fa sapere che verserà 300 milioni all'Agenzia delle Entrate. Ufficialità di una notizia che era stata già diffusa oggi al Sole 24 Ore, ne parleremo più avanti. Infine Ferrari, che ha chiuso un trimestre record, l'utile netto in aumento del 60,1% a 124 milioni di euro, le consegne sono state 2003 in aumento di 121 unità, i ricavi netti sono cresciuti a 821 milioni, ai risultati della casa di Maranello sono dedicati 100 secondi di Radio 24 e il Sole 24 Ore, che vanno in onda anche su RDS, Radio Dimensione e Suono, oggi a firma del vice direttore del Sole 24 Ore, Alessandro Plateroti. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alessandro Plateroti. Dimenticate gli utili della Apple, quelli delle banche o dei colossi della difesa. La vera sorpresa dei mercati finanziari si chiama Ferrari. La Ferrari a Wall Street è sempre stata un'icona, soprattutto per i banchieri che ne acquistavano a man bassa, ma questa volta è il suo bilancio ad aver lasciato a bocca aperta la comunità finanziaria. Una vera sorpresa, visto che la cosa più importante è che il margine di profitto della Ferrari, per la prima volta nella storia, ha quasi raggiunto quella della Apple, che è la macchina da soldi per eccellenza. 29,5% di utile lordo, prima delle tasse, degli interessi, degli svalutazioni e degli ammortamenti, un livello comparabile con 31,6% messo a segno dall'Apple e il 36,5% che Hermès, il colosso del lusso, ha portato a casa nell'ultimo trimestre. Sostanzialmente che vuol dire? Vuol dire che per la borsa americana e per le borse internazionali il titolo della Ferrari non è più un titolo dell'auto, ma un titolo del lusso, come appunto Tiffany o può essere Hermès o gli altri colossi dell'eleganza o anche del Made in Italy. Una vera sorpresa questa che ridà fiducia non soltanto a una società che dopo la quotazione ha visto il proprio titolo scendere per poi recuperare, ma soprattutto in una cosa che evidentemente, malgrado le difficoltà, c'è sempre qualche ricco pronto a spendere i soldi per un'icona del Made in Italy. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. E veniamo dunque al primo tema di questa giornata, come si diceva, i call center. C'è stato questo accordo tra il governo e le imprese per uno stop sostanzialmente alle delocalizzazioni, è un'intesa della durata di 18 mesi rinnovabili, prevede che il 95% delle attività di call center svolte direttamente dalle imprese sia svolto in Italia e che l'80% di quelle derivanti dai nuovi contratti in outsourcing, ossia quando le aziende che hanno bisogno di un servizio di call center si rivolgono ad un'altra azienda che fa questo servizio, siano effettuate sul territorio nazionale, in questo caso appunto come si diceva l'80%. Molti altri i punti che sono compresi, abbiamo da farvi ascoltare la voce del Ministro dello Sviluppo Economico Calenda, del Presidente del Consiglio Gentiloni e soprattutto di parlarne con un ospite che è Paolo Sarzana, che è Presidente di AssoContact, che è l'associazione appunto dei Contact Center in Outsourcing, aderente tra l'altro a Confindustria Digitale, però visto che sono già le 17:31 andiamo in pausa, ci sentiamo il meteo e poi ne parliamo. Focus Economia. Ed eccoci qua, 349-238-6666 per i vostri sms, per i messaggi su WhatsApp. Si parla dunque di call center, quali sono le aziende che hanno firmato, ci chiede qualcuno, questo accordo che in realtà è un protocollo. Eni, Enel, Sky, Intesa San Paolo, Team, Fastweb, Poste Italiane, Trenitalia, NTV, Unicredit, Wind 3, Mediaset e Vodafone. Scusate la velocità, però se ci mettiamo a fare gli elenchi qua non usciamo mai più. Paolo Sarzana, presidente di AssoContact, l'associazione dei contact center in outsourcing, aderente a Confindustria Digitale e rappresenta e tutela le aziende del settore. Sarzana, buonasera. Buonasera a voi. Allora, eccoci qua. Il tema qual è? Cercare di evitare il più possibile, questo mira questo protocollo, cercare di evitare il più possibile le delocalizzazioni di call center. Secondo i dati che abbiamo, poi le chiedo conferma, insomma, no? Si stima che circa 25.000 addetti tra Romania, Albania, Polonia, Croazia, Tunisia e Marocco lavorino in realtà per l'Italia. Più o meno questa la cifra? Allora, guardi, la cifra è una cifra del MISE, quindi risulta da loro dati, quindi non sono in grado, come dire, di confermarla o meno. Sì. Senta, e il suo giudizio su questo accordo, che prevede una serie di cose, lo vogliamo ricordare. Si prevede che il 95% delle attività dei call center svolti direttamente dalle imprese, e quindi quelli interni, siano svolti in Italia. L'80% di quelli che più strettamente riguardano voi, Sarzana, no? Quindi quelli in outsourcing, siano effettuati sul territorio nazionale. E ancora, viene introdotta la sterilizzazione del costo del lavoro, verranno escluse quelle offerte nelle quali il valore sia al di sotto del costo orario di lavoro, e poi certificazioni linguistiche e via dicendo. Ci dà un giudizio generale innanzitutto? Allora, il giudizio è positivo rispetto, come dire, al fatto che dopo 10 anni, nel senso che dopo la norma fatta dall'allora ministro del lavoro Damiano nel 2007, è la prima volta che il governo italiano, come dire, approccia il settore in un'ottica, come dire, di normarlo e qualificarlo. Quindi, come dire, apprezziamo lo sforzo. Il tema della delocalizzazione è, a nostro giudizio, come dire, un effetto e non la causa. Quindi le misure volte a salvaguardare i livelli di prezzi a cui vengono acquistati questi servizi è un elemento fondamentale per consentire, come dire, la stabilità delle imprese del settore, far sì che le migliori possano lavorare a delle condizioni eque e quindi garantire il lavoro ai circa 80.000 soggetti che in Italia effettuano questa attività. Sì, e anche come dire, dare anche una qualità, no? Diversa, un controllo sulla qualità maggiore, no? La qualità è fondamentale. Ci attendiamo, ma è stato anche scritto nel documento pubblicato dal MISE, un tavolo tecnico che in qualche modo, come dire, svilupperà questo protocollo d'intesa in modo tale da approfondire una serie di questioni che vadano proprio, come dire, a istituire una certificazione qualità in modo tale che solo le migliori società possano, come dire, operare al meglio, ecco. Si è agito in questi anni, mi sembra di capire, Sarzana, anche da quello che ci diceva lei, no? Dice finalmente si interviene, si è agito un po' in maniera selvaggia, per così dire, un settore del quale di fatto non ci si è mai presi cura, eccetto, come dire, una sorta di racconto anche sociale della vita dei nostri giovani, è entrato in qualche modo il settore dei call center nella mitologia, in questo senso, di una certa fase di questo paese. E però, non so, come dire, non ci si è mai presi veramente cura di tutto questo in maniera organica. Secondo lei, questo è un protocollo d'intesa, non è particolarmente vincolante, al di là poi di quello che emergerà dal tavolo tecnico, vorrei capire se secondo lei serve una normativa specifica per il settore e che sia più stringente. Assolutamente sì, l'ho già espresso al MISE anche in un comunicato stampa che ho fatto mettere oggi, nel senso che questo protocollo è sicuramente un primo passo, ma quello che voi suggerite è sicuramente giusto, cioè il fatto di tradurre tutto ciò in una norma che in qualche modo vada a incidere in maniera più stringente sulle regole, sui principi, sui valori a cui questi servizi debbano essere erogati, pagati, e quindi far sì che la qualità emerga, le società possano lavorare in maniera economicamente accettabile e quindi non dover incorrere ciclicamente in quelle crisi a cui abbiamo assistito e che poi sono crisi sociali, oneri per lo Stato che deve finanziare con ammortizzatori sociali. Ascolti Sarzana, ce lo chiede qualche ascoltatore, giustamente da utente, no? Più che da lavoratore di call center, ci dice: è previsto qualcosa anche sul fronte delle telefonate rispetto alle fasce orarie, soprattutto per gli utenti, diciamo, delle telefonate che vengono effettuate, oppure no? Allora, questo mondo dei servizi di call center è diviso, diciamo, in due, nella parte, diciamo, di assistenza al cliente, quindi sono coloro i quali gli operatori ricevono un contatto da parte del consumatore per risolvere un problema. L'altro mondo è quello cosiddetto dell'outbound, quindi della vendita, e in questo caso incide, come dire, sulla possibilità di disturbare, no, il consumatore finale. Allora, come Assocontact abbiamo pubblicato un codice etico che prevede appunto il rispetto di orari, giornate. C'è in discussione, diciamo, in Parlamento anche un disegno di legge rispetto a una riformulazione del registro delle opposizioni, che quindi quel registro presso il quale un consumatore si può iscrivere e specificare il fatto di non voler essere disturbato. Fino ad oggi questa cosa è consentita solo per chi ha un'utenza di telefonia fissa, quindi ci auspichiamo che questa cosa possa evolvere rispetto a anche chi è titolare di solo un'utenza mobile, perché altrimenti il rischio è che queste persone continuino a essere disturbate, come dire, a prescindere dalla loro effettiva volontà. Certamente. L'altro punto che vorrei sollevare è questo. Allora, noi abbiamo parlato finora delle aziende, come si è detto, ce ne sono una serie di private, Eni, Enel, Sky e molte altre. Dall'altra parte però poi ci sono le gare che fa lo Stato per i call center, e spesso queste gare sono al massimo ribasso e comportano esattamente questo, cioè il fatto che poi le aziende che vincono sono quelle, esattamente quelle che delocalizzano, no? Allora, il rischio c'è. Massimo ribasso, allora, il massimo ribasso è stato vietato dalla riforma del codice degli appalti, quindi in qualche modo il problema dovrebbe essere, come dire, stato risolto. Il problema è poi capire in base a quali principi vengano, come dire, formulati i valori grazie ai quali queste gare vengono vinte, nel senso che ci possono essere magari dei meccanismi per cui, come dire, si sorpassa la questione. La committenza pubblica in questo caso, come dire, non è dirimente, perché rappresenta circa il 20% del mercato, mentre l'80% è rappresentato da aziende, come dire, un ex tempo, diciamo, parastatali, ma oggi di fatto delle aziende private, perché sono delle SPA quotate in borsa, tutto il settore dell'energia, ad esempio, che oggi è tra i maggiori committenti. Quindi il mio suggerimento è che una riforma normativa vada a incidere nei limiti in cui, come dire, la legge lo consente, anche su tutte queste realtà che sono comunque titolari o di concessioni pubbliche o che operano in mercati regolamentati. Però lavorando sul tema della concessione, secondo me ci si può arrivare, ecco, a formulare un sistema di regole più stringenti che quello a cui auspicavamo prima. Qua c'è qualche ascoltatore che ci scrive per chiudere, che ascoltatori sono iscritti al registro delle opposizioni e però continuano a ricevere telefonate. Questo è anche un problema, cioè anche questo è un tema che va regolamentato un po' più rigidamente. Sì, no? Questo le spiegavo prima perché accade, perché se lei ad esempio è titolare di un'utenza mobile e si iscrive al registro delle opposizioni, ma non è anche titolare di un'utenza fissa, la sua iscrizione è nulla e lei continua ad essere contattato. Quindi le regole che, come dire, governano il registro vanno sicuramente riformulate. La ringrazio, grazie per essere stato con noi. Paolo Sarzana, presidente di AssoContact, l'associazione dei contact center in outsourcing, aderente tra l'altro a Confindustria. Facciamo così, sentiamo che cosa ha detto su questo il presidente del Consiglio Gentiloni, andiamo direttamente al traffico e poi ai mercati. Credo però che sia un impegno che fa bene al Paese, che lancia un messaggio di tutela del lavoro, di protezione sociale, di responsabilità sociale delle imprese, che è un messaggio in questo momento di particolare rilievo e di particolare attualità. Si tratta di un settore ad altissima intensità di lavoro. Abbiamo 80.000 persone che ci lavorano in Italia e abbiamo un rapporto tra dimensione dell'investimento, dimensione dei capitali impiegati da queste imprese e intensità di lavoro che è particolare. Siamo di fronte a una evoluzione di questo settore che è difficile oggi da definire compiutamente, nel senso che si vedono certamente alcune tendenze che sono tendenze ad avere lavori meno occasionali, meno transitori, più stabili nelle persone che lavorano nei call center, e contemporaneamente ad esigere più qualità, più specializzazione anche in rapporto all'evoluzione tecnologica nel lavoro che viene fatto. Questa è la fotografia. Sappiamo tutti che è difficile oggi prevedere fino in fondo l'evoluzione che avrà questa dinamica, perché siamo alle prese con uno degli esempi più classici, no, della sfida che il lavoro ci pone in questi anni, in questi decenni, nel rapporto tra globalizzazione, evoluzione tecnologica e appunto dimensione del lavoro. Faircam Air & Ocean non conosce confini. Spedizioni aeree e marittime in tutto il mondo. Faircam.com. Vi presento Focus Economia. Ve lo dico, non facciamola diventare una trasmissione sul tema del registro delle opposizioni, di chi si è iscritto al registro delle opposizioni e continua a ricevere chiamate dai call center. Insomma, si parla più della questione strettamente industriale. Scrivete ai colleghi del Sole 24 Ore che su questi temi, tra l'esperto risponde, norme e tributi, sapranno cosa dirvi. Veniamo adesso, mentre vi dico che i mercati hanno chiuso con ampi rialzi, un quasi 2% per il FTSE MIB, l'1,8% per il FTSE O'Share, mentre l'America è negativa, meno 0,06% il Dow Jones, Francoforte che guadagna lo 0,96% e Londra lo 0,21%, ma i mercati ci arriveremo tra un attimo. Veniamo alla vicenda di Google. Google che ha accettato di versare al fisco italiano 300 milioni di euro. Oggi è arrivata l'ufficialità, la notizia era stata anticipata dal Sole 24 Ore, oggi in edicola a firma di Angelo Mincuzzi, che è in studio con noi. Angelo, ciao, buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Allora, un anno di trattative ci sono volute tra l'Agenzia delle Entrate, i magistrati della Procura di Milano che su questo stavano indagando e i legali appunto di Google. E sembra poter essere un passo avanti importante, anche così lo interpreta Rossella Orlandi, il direttore dell'Agenzia delle Entrate, perché dice insomma potremmo arrivare a questo punto a fare una serie di accordi preventivi con questi colossi del web, una sorta di pietra miliare, no, in questo processo complicato che vuole portare queste aziende a pagare le tasse in sostanza. Sì, ma perché probabilmente questa è l'unica strada possibile. Cioè, noi dobbiamo pensare che tassare, capire qual è il reddito prodotto dalle web companies, quindi da società come Google, Amazon, Apple, nei singoli paesi, quindi in Italia, è difficilissimo, perché sul web, il web è liquido, il web è ovunque e quindi non ci sono le strutture fisiche come nelle industrie manifatturiere che siamo abituati a vedere e ad avere in Italia. Quindi gli accordi cosiddetti di tax ruling sono probabilmente l'unica strada, cioè per definire esattamente quanto Google e le altre società come Google dovranno pagare nei prossimi anni. Cioè tu in sostanza ti metti d'accordo, dici quando uno viene ad operare qua o quando è già arrivato, come in molti casi, come riguarda per esempio il fatto, riguarda per esempio Amazon, come può riguardare Facebook e altre aziende, quando sei qua io ti dico guarda, io sono il fisco, facciamo così, io calcolo questa cifra, tu mi devi questa cifra ogni anno. Puoi dire no, parte una trattativa, a un certo punto ti accordi, lo firmi e te ne dimentichi, anche perché non è così misurabile, come dicevi tu, come per esempio quel che riguarda un'azienda manifatturiera o altre aziende o anche aziende di servizi. Esatto, è così ed è per questo questo è il motivo per cui vengono firmati questi accordi come quello di oggi e come quello che alla fine del 2005 è stato firmato con Apple. Per il passato ci si mette una pietra sopra, ci si accorda su una cifra che sicuramente è molto inferiore a quella che queste società avrebbero dovuto pagare se fossero state delle società normali, ma è pur sempre qualcosa. Il fisco incassa dei soldi che sono utili e per il futuro soprattutto si riesce ad avere un accordo che consenta di tassare finalmente queste imprese. Sì, qualche ascoltatore infatti ce lo diceva fin dall'inizio, dice 300 milioni rispetto a quello che presumibilmente ha guadagnato Google in Italia è un'inezia, però appunto come si diceva è un po' complicato calcolare quanto effettivamente abbia guadagnato in Italia, quanti di questi soldi arrivino dall'Italia e così via, no? Ma non c'è dubbio, e io posso capire anche che un ascoltatore possa essere indignato anche da questo, perché noi persone fisiche, o penso alle piccole imprese, pagano fino all'ultimo centesimo, tasse che sono molto alte in Italia, ma le pagano. I colossi come Google, come Apple, riescono praticamente a pagare pochissimo. E allora Ora capisco l'indignazione, devo dire la condivido, però questa è l'unica strada efficace che si può fare per il futuro. Sì, su questo fronte mi sembra che ci sia una sorta, no, di gioco di sponda che sta proseguendo da qualche tempo tra la Procura di Milano e l'Agenzia delle Entrate, nel senso che parte la Procura di Milano, apre un'indagine, la settimana scorsa ha aperto un'indagine su Amazon per una presunta evasione fiscale relativa al quinquennio terminato nel 2014, su un giro di affari da 2 miliardi e mezzo di euro. L'Agenzia delle Entrate interviene per accertare, per verificare, eccetera, eccetera. In questo gioco di sponda, in genere si chiude con un accordo. È successo anche con Google, appunto, e forse succederà anche con Amazon a questo punto. È quello che il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Rossella Orlandi, ha chiamato poche ore fa gioco di squadra. È così. La Procura, grazie all'attività della Guardia di Finanza, non dobbiamo dimenticarlo, la Guardia di Finanza è fondamentale, apre un'inchiesta, accerta una violazione e dopodiché entra sul palcoscenico l'Agenzia delle Entrate, si fa l'accordo. Il processo penale va avanti, ma viene alleggerito dopo questo accordo. Ma questo è un copione che ha avuto successo con Apple, ha avuto successo con Google e si replicherà anche presumibilmente con Amazon e anche con Facebook, perché c'è un'inchiesta aperta anche su Facebook. Anche su Facebook è aperta un'inchiesta? Anche su Facebook. Sì, anche su Facebook non è quantificato. Per Facebook al momento, almeno ufficialmente, non si sa la cifra che dovrebbe essere contestata, ma credo che anche Facebook seguirà questo copione sostanzialmente. Sì, voglio rispondere all'ascoltatore che fa la battuta. No, non credo, dice ma come, i nostri efficientissimi studi di settore? No, non credo che gli studi di settore possano tenere in considerazione aziende di quelle dimensioni. Ci scrive un ascoltatore invece più provocatoriamente. Dice, io sono indignato del fatto che il fisco italiano chieda soldi ad un'azienda che in Italia in pratica non esiste. Vedrete il giorno che il resto del mondo farà lo stesso con i nostri esportatori, ci sarà da ridere. Questo è, no, uno spunto e un'idea di... Ma in realtà la società non è vero che non esiste. La società esiste, ha una struttura che è commerciale, no? Per cui, come dire, la società esiste. Poi i contratti venivano sottoscritti ufficialmente con Google Irlanda, però i rapporti di affari si avevano con la società italiana. Sì, è tutto molto difficile, come dire, da identificare, anche in termini di business, perché per esempio, ci scrive un ascoltatore, Apple vende prodotti, non si può sapere quanto fattura, ma Apple non vende solamente prodotti, perché vende la musica, vende servizi digitali, vende i film che potete comprare tramite la Apple TV, tanto per fare un esempio. Con Google, voi se siete un'azienda potete comprare della pubblicità, e questa pubblicità, se siete un'azienda che opera prevalentemente in Italia, viene vista prevalentemente e sfruttata prevalentemente per l'Italia, a meno che non vi indirizziate al mercato estero. E quindi è tutto sostanzialmente un giro italiano, e però è un giro che passa da aziende che in realtà si trovano all'estero. Come capite, è piuttosto complessa da gestire, semplicemente perché è un fenomeno per molti versi innovativo. Sono molti gli stati, in realtà, Angelo, non solamente l'Italia, che stanno cercando di prendere le misure, no, di tutto questo. Sono tutti gli stati, perché è un fenomeno nuovo, è un fenomeno che nessuno sa come gestire. E allora l'esperienza italiana può essere un'esperienza apripista da questo punto di vista, ma in tutti gli stati c'è esattamente questo problema. L'anno scorso la Gran Bretagna ha fatto pagare a Google 130 milioni di sterline per sanare la posizione fiscale. Ma in Gran Bretagna Google ha un business che è enormemente superiore a quello italiano, però il fisco inglese si è accontentato di una cifra molto più bassa di quella italiana. Io ti ringrazio, grazie ad Angelo Mincuzzi del Sole 24 Ore per questo punto. Di questi temi, guardate, torneremo a discutere sicuramente, perché sono alcuni dei temi centrali di questo nuovo modello economico. Ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede nel mondo, perché c'è GR24, ci ritroviamo subito dopo e sarà il momento dei mercati. Ciao, sono Enrico Ruggeri. Tutti i giorni a Il Falco e il Gabbiano vi racconto storie di vite straordinarie che con un colpo d'ala hanno saputo cambiare il loro destino e quello di tante persone. Vi aspetto alle 15.30 tutti i giorni su Radio 24. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Focus Economia. Eccoci di nuovo buonasera da Simone Spezia per la seconda e ultima parte di Focus Economia. 349-238-6666 per i vostri sms e per i messaggi su WhatsApp. Molti ne stanno arrivando, tra l'altro, su Google, sull'accordo raggiunto con l'Agenzia delle Entrate. Guardate, della vicenda tanto di Google quanto di Apple ne abbiamo parlato spesso. È un sistema molto complesso quello che utilizzano queste aziende, ed è un sistema, a dire la verità, in gran parte legale, cioè un sistema, per così dire, di elusione, forse, non di evasione. Fatto sta che l'accordo è stato raggiunto. Guardate, poi alla fin fine la sostanza è che allo Stato italiano entreranno 300 milioni di euro da Google, e soprattutto, devo dire la verità, è un mio personalissimo punto di vista, però il fatto che si apra finalmente in questo paese a delle ipotesi nelle quali, per quanto in una situazione così particolare, se vieni ad investire in Italia io ti do determinate condizioni e tu hai la certezza di quelle condizioni fiscali, potrebbe essere anche un fattore di attrattività, niente male. E forse questo è lo snodo più importante della vicenda Google, come sottolineato anche dal direttore dell'Agenzia delle Entrate, Rossella Orlandi. Veniamo dunque ai mercati, dove Milano svetta nella giornata di oggi, quasi un 2% di guadagno per il FTSE MIB, un 1,8% per il FTSE All Share, mentre Parigi guadagna un punto percentuale o poco meno, Londra lo 0,19%, l'America in calo, il Dow Jones cede lo 0,25%. Andrea Fontana, Radio Corriere Sole 24 Ore, ciao, buongiorno. Ciao, buonasera Simone. Anzi, buonasera, sì. Hai ragione tu, buonasera. Che cosa è successo? Come mai Milano va così meglio delle altre? Beh, Milano va meglio delle altre, direi, per due fattori. Innanzitutto perché ci sono state trimestrali molto positive da parte di una serie di società che non a caso sono quelle che hanno guidato il FTSE MIB. Mi riferisco a Leonardo, a Ferrari, a Yux, Net-a-Porter, alla stessa Telecom Italia, che è ancora impegnata in un'importante assemblea degli azionisti. Dall'altro canto perché, guardando nell'insieme anche il mercato dei governativi, il mercato obbligazionario dei titoli di Stato, ci sono stati acquisti sui titoli di Stato dell'Europa periferica, quindi con un abbassamento dei rendimenti e dei differenziali rispetto al Bund, e di questo ha beneficiato un po' tutto il settore finanziario, tant'è che l'indice dei bancari italiani ha guadagnato il 3%, si è riportato ai massimi dall'aprile 2016, e si sono viste performance di rialzo importanti per quanto riguarda Banco BPM, Biper, Unicredit e la stessa Intesa San Paolo. Quindi questo ha permesso a Milano di tornare ai livelli di fine 2015 per quanto riguarda l'indice principale, cioè il FTSE MIB, anche se anche le altre borse europee, scusate gioco di parole, si sono ben comportate, a parte Londra, frenata soprattutto dai minerari. Io direi che la parte negativa dell'ISINO la esauriamo molto rapidamente, Andrea, perché c'è ST Microelectronics, che però ha corso molto nelle ultime settimane, cede uno 0,2%, e poi abbiamo tutti i petroliferi, sostanzialmente in una giornata nella quale il petrolio perde molto, circa il 3% per quanto riguarda il WTI a New York, e sono Tenaris meno 2,7%, Saipem meno 1,2% ed Eni meno 0,07%, tutto collegato al prezzo del greggio, no? Sì, assolutamente sì. Ok, perfetto. Quindi, esaurita la parte negativa, perché tutti gli altri titoli sono in positivo, andiamo innanzitutto ai titoli migliori. Leonardo, Finmeccanica, qua i conti, no? Sì, assolutamente, un primo trimestre che normalmente è debole, il più debole dell'anno per quanto riguarda il gruppo aerospaziale, invece ha portato a risultati migliori delle attese, innanzitutto nei margini operativi vicini a 190 milioni, ma anche per quanto riguarda gli ordini, che sono cresciuti del 3% a oltre 2,6 miliardi. Questo ha permesso al titolo di superare i 15 euro e di portarsi sui massimi dal 2008 dopo i conti, quindi un bel recupero per questo titolo. Leonardo più 7,23%, dunque Ferrari anche qua i conti che sono buoni, ne abbiamo parlato in apertura, no? Più 5,68%. Sì, Ferrari ha toccato oggi i massimi storici per quanto riguarda il titolo, è una storia breve ovviamente perché Ferrari è quotata da meno di 2 anni a Milano, però insomma i conti hanno visto un utile che è cresciuto del 60% a 124 milioni, quindi il titolo oggi ha raggiunto 73,5 euro ed è stato tra i migliori in assoluto. Insieme a Yux Net-a-Porter più 4,94%, Telecom Italia più 4,6%. Sì, per quanto riguarda Telecom in realtà ovviamente l'attenzione, la speculazione è più spostata su quello che sarà il rinnovo del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea non ha ancora votato e domani ci sarà il primo Consiglio rinnovato da cui dovrebbe uscire o potrebbe uscire il nome del nuovo Presidente o del vecchio Presidente, cioè della conferma di Giuseppe Recchi, stando anche alle parole di Arnaud de Puyfontaine, il vicepresidente di Telecom e l'amministratore delegato del primo socio, cioè di Vivendi, che durante l'assemblea invece ha espresso parole di sostegno, di supporto per l'attuale linea dirigenziale costituita in primo luogo appunto da Giuseppe Recchi alla presidenza e da Flavio Cattaneo quale amministratore delegato, ma sono stati i conti a spingere in primo luogo Telecom fino da questa mattina, così come sono stati i conti di Yux Net-a-Porter, la società di vendita di moda attraverso l'e-commerce, perché i conti sono stati migliori delle previsioni, con una crescita organica vicina al 20%, questo ha permesso diciamo di confermare gli obiettivi di fine anno per i risultati del gruppo. Bene, i bancari, come si diceva, BPM più 4,61, Popolare Emilia Romagna più 3,65, Unicredit più 3,5, bene anche Azimut altrettanto più 3,5, così come Buzzi Unicem, Banca Generali più 2,9, Terna più 2,89, Finecobank più 2,6, Intesa San Paolo più 2,5, bene anche Unipol sopra i 2 punti percentuali di guadagno insieme ad Enel, Snam e Brembo, Mediobanca che guadagna quasi 2 punti, Exor altrettanto, Generali l'1,9, Unipol Sai l'1,7, l'1,5 lo guadagnano Fiat Chrysler, Atlantia, Banca Mediolanum, l'1,3 Ferragamo e Moncler, bene anche Mediaset più 1,16, Poste Italiane più 1,03, Ubibanca più 1,02, Italgas poco sotto il punto percentuale di guadagno più 0,85, bene anche Campari, Luxottica, ricordati, CNH e Prismian appunto tutti sotto il punto percentuale di guadagno. Grazie Andrea Fontana, Radio Corriere Sole 24 ore. Buona giornata. Buona giornata a voi. E veniamo al prossimo tema, che è quello della concorrenza. Mentre continuano ad arrivare molti vostri messaggi sul tema di Google e dell'accordo raggiunto con il fisco, qualcuno dice il discorso non è molto edificante perché stiamo dicendo voi multinazionali venite in Italia che pagate comunque poco. Io dico all'ascoltatore, tenga presente che tra gli stati esiste ormai un grande tema di concorrenza fiscale. Ed è un tema che porta all'attrazione degli investimenti dall'estero, cioè se vuoi che queste aziende vengano ad investire in Italia gli devi offrire un sistema anche semplice di pagamento delle tasse. Poi si può essere d'accordo o non può essere d'accordo, però diciamo così, se vuoi farlo devi offrirgli qualcosa in più, se no giustamente se ne vanno da altre parti. L'Irlanda è un caso su tutti, ha costruito le sue fortune esattamente sulla concorrenza fiscale con gli altri paesi europei. Ripeto, si può essere d'accordo o non essere d'accordo, però questo sostanzialmente avviene. E quindi, se uno riesce ad offrire un trattamento, non dico di favore, ma un trattamento quantomeno semplificato, e forse anche di favore ad alcune aziende che ti portano valore, beh, ci sta. Veniamo dunque alla legge sulla concorrenza. Carmine Fotina del Sole 24 Ore, ciao, buonasera Carmine. Ciao, buonasera. Allora, io l'ho già citato in apertura perché devo dire che è il dato che più colpisce, poi verremo sulle singole misure, è il dato che hai fornito tu. Lo ricordiamo agli ascoltatori, c'è una legge del 2009 che prevede che ogni anno il governo vari un disegno di legge sulla concorrenza, che poi naturalmente deve essere approvato dal Parlamento. Ogni anno, la legge sulla concorrenza varata dal governo ci ha impiegato 800 giorni a ricevere un secondo voto parlamentare, che tra l'altro non basta perché dal Senato dovrà tornare alla Camera, dove la prima lettura è stata nell'ottobre del 2015. 800 giorni, questo è il primo numero, e poi ti chiedo di pazientare un attimo, sentiamo cosa succede sulle strade e veniamo alle singole misure. A tra poco. Focus Economia. Allora, eccoci Carmine, travagliatissimo il percorso di questo di questa legge sulla concorrenza che dovrebbe essere annuale, e tra l'altro non è detto che sia finita, no? Perché c'è un altro passaggio parlamentare, come si diceva. Sì, almeno uno, nel senso che si torna alla Camera, dove il governo potrebbe riporre la questione di fiducia, ma se invece il provvedimento dovesse essere modificato, il paradosso è che poi dovrà tornare di nuovo al Senato, ovviamente per essere rivotato nelle parti modificate. Sarebbe veramente clamoroso, difficilmente oggettivamente in quel caso la legge avrà luce in via definitiva, secondo me, perché tra un prolungamento e l'altro, con la pausa estiva, il rischio di arrivare praticamente alle porte della sessione elettorale, della prossima campagna elettorale, sarebbe veramente una beffa. E chi si mette a fare leggi sulla concorrenza sotto elezioni, perché poi è quello il grande tema, no? Certo. Tant'è vero che il ministro Calenda ha preannunciato un altro intervento, un altro provvedimento appunto in autunno, e anche lì in teoria saremmo appunto forse in clima preelettorale. In quel caso lo strumento dovrebbe essere il decreto legge, proprio per cercare di blindare gli interventi, perché oggettivamente parlare di un disegno di legge annuale sulle liberalizzazioni si è dimostrata una scelta abbastanza miope, sia perché non si è riusciti a rispettare l'obiettivo di una legge annuale, sia perché ci si è resi conto che fare un provvedimento omnibus aperto all'interlocuzione o in qualche caso all'ostruzionismo delle categorie interessate rende praticamente quasi ingestibile in Parlamento questo tipo di provvedimenti. Non è un caso che l'unico vero provvedimento quasi organico, ma non era una vera legge annuale, un decreto legge che risale all'era Monti Catricalà, quindi nel decreto crescita di quel governo fu infilato un grande capitolo di liberalizzazioni. Questo comunque è la complessità dell'iter. Non a caso lo ricordiamo, il nodo degli autoservizi pubblici non di linea è stato rimandato ad altro provvedimento, ci riferiamo chiaramente a taxi, NCC, Uber e a tutto il riordino di quella parte, Esatto. Chiaramente. Appunto Calenda parla della possibilità di questo decreto legge in un'intervista che tu realizzi tra l'altro proprio oggi sul Sole 24 Ore. Vediamo che cosa ci è entrato di veramente rilevante, Carmine. Ma la cosa che potremmo definire sicuramente più popolare, perché forse interessa un numero praticamente tutti e chiunque guida un'auto, è la possibilità di avere particolari sconti sull'RC auto vincolati ad alcune condizioni, tra cui l'installazione della scatola nera, comunque a spese della compagnia, oppure l'ispezione del veicolo, oppure la presenza di un meccanismo che impedisca l'avvio del motore al rilevare un determinato tasso alcolemico. È chiaro che sono delle opzioni che l'assicurato deve esercitare. Quale sarebbe lo sconto? La legge non entra nel dettaglio, ma demanda ancora, in questo caso all'IVAS, l'Istituto delle Assicurazioni, che dovrà definire i criteri. Ma si badi bene, la legge non dice entro quando, non fissa un termine entro quale l'IVAS deve definire questi criteri, quindi c'è una certa vaghezza da questo punto di vista. Sulle assicurazioni ci sono una serie di misure antifrode, c'è una riscrittura dei risarcimenti, della tabella dei risarcimenti, e poi per restare a materia di grande popolarità c'è il tema molto controverso dell'energia, perché la legge dispone la fine del mercato tutelato, delle tariffe elettriche e del gas controllate, in un regime diciamo controllato dall'autorità, e dispone che questo accada nel luglio 2019 per il passaggio di tutti gli utenti, quindi anche quelli domestici e le piccole imprese, al mercato libero. Una data, quella del 2019, che è stata frutto di diversi compromessi. Inizialmente si parlava di 1 luglio 2018, poi metà 2018, poi si è arrivati a luglio 2019. Questo anche perché i consumatori hanno un po' di dubbi sulla virtù del mercato libero, visto che per ora i prezzi non sono così convenienti. Sì, quanto siete pedanti, lo dico all'ascoltatore che ci scrive: le scatole nere si montano sugli aerei e non sulle auto. Diciamo scatola nera per comodità, avete capito, un dispositivo che controlli e che permetta, come dire, di capire chi effettivamente ha fatto un incidente, che cosa è successo all'interno dell'auto, eccetera eccetera. Ultimi due punti che ti chiedo, Carmine: le farmacie e la questione notai. Beh, sulle farmacie in realtà non è entrata quella che era una norma molto attesa da una parte del settore, che era la liberalizzazione dei farmaci di fascia C con ricetta, ma ci si è limitati a consentire alle società di capitale di avere la proprietà delle farmacie entro un tetto che è del 20%. Ogni società di capitale può detenere al massimo il 20% delle farmacie di una regione. È un tetto abbastanza ampio, perché poi più società di capitale in realtà potrebbero finire per creare un piccolo oligopolio, sì, quindi in realtà sì. La norma alla fine è stata, secondo me, abbastanza ammorbidita. Per quanto riguarda invece i notai, tra le varie modifiche, quella più rilevante è il tetto, diciamo, per ogni sede notarile, che scende da 7.000 a 5.000. Quindi di fatto dovrebbe consentire un allargamento della pianta dei notai. Allora, io ti ringrazio, grazie a Carmine Fotina del Sole 24 Ore. Qualcuno mi dice: la mia assicurazione mi ha già fatto lo sconto già da 2 anni per la presenza della scatola nera. Evidentemente si ampliano le cose da questo punto di vista. Abbiamo ancora pochi minuti a chiudere, ci occupiamo di Stati Uniti. Con Mario Platero, editorialista del Sole 24 Ore da New York. Mario, ciao, buonasera. Eccoci, buonasera. Eccoci qua, perché stasera si dovrebbe votare sull'Obamacare, no? Sulla riforma sanitaria di Obama. Siamo tutti in grande attesa, perché la promessa è quella di un passaggio di questa legge, che i voti ci sono stati tutti molto ottimisti nel contesto del Partito Repubblicano. Il capo della maggioranza e il presidente della Camera, Paul Ryan in particolare, hanno detto che hanno fatto la conta dei voti e ci sono. Questa volta i voti ci sono. C'è stato uno spostamento ieri sera all'improvviso, quando due deputati repubblicani, uno del Michigan e l'altro del Missouri, a un certo punto, che resistevano a questa proposta, di nuovo sembrava che non andasse avanti, a un certo punto hanno trovato una soluzione. Ti dico qual è l'oggetto del contendere. Sì. E il fatto che questa nuova proposta, come dire, rende più difficile ottenere una sicurezza per coloro che hanno... Però Mario stiamo perdendo l'audio. Vediamo se riesce a trovare un posto dove ci sia una copertura cellulare migliore. Sì, ci siamo. Vediamo se questa è meglio. Ecco, ti dicevo che il problema è della perdita della possibilità di avere l'assicurazione se hai delle malattie preesistenti. Bisogna pagare molto di più. Pensa che addirittura nel caso di una persona che aveva avuto dei problemi ricorrenti, sì, l'assicurazione gliela davano, ma doveva pagare $170.000 all'anno. Puoi immaginare chi è che ha $170.000 per pagare l'assicurazione medica. Allora il governo, diciamo, ha stanziato una gran quantità di fondi, 100 miliardi di dollari a livello governativo, 15 miliardi a livello statale, per dare questi fondi agli stati, in modo che siano gli stati a intervenire per coprire queste differenze, e però mancava ancora qualcosa. E alla fine questi due deputati hanno ottenuto 8 miliardi di dollari in più e lì ci si è messi d'accordo. Per cui l'atteggiamento è ottimista, sarebbe una tante per Donald Trump, perché sarebbe storia in Parlamento. Restano naturalmente molti dubbi su questo piano, la gran, diciamo, tutte le associazioni mediche di pazienti, associazioni dei cardiologi, l'associazione dei pensionati, ci sono una decina di organizzazioni, sono contrarie perché dicono che alla fine, rispetto all'Obamacare, questo nuovo progetto sarà molto peggio, e ci saranno 24 milioni di americani che oggi sono assicurati che non lo saranno più, quindi i numeri sono importanti. Allora, io ti ringrazio, grazie a Mario Platero per essere stato con noi e averci aiutato a capire su che cosa si voterà questa sera. Tra l'altro ne torneremo a parlare anche stasera in Effetto Notte. Noi adesso ci fermiamo perché finisce la trasmissione. I ringraziamenti vanno a Roberta Frisani in regia, Barbara Bianchi e Mauro De Corno in assistenza e redazione. Un grazie a tutti voi per l'ascolto, come sempre la trasmissione torna domani dopo il giro delle 17 con Sebastiano Barisoni. Per quanto ci riguarda, ci risentiamo domani alle 13 con Effetto Giorno. Una buona serata da Simone Spezia. Radio 24, libera la voglia di fare.